Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Enrico Brivio alla Rassegna Stampa Europea. Sono molto contento di raccogliere il testimone da bravissimi colleghi come Gigi Donelli e Giulia Crivelli e accompagnarvi oggi attraverso la stampa europea che parla di Europa e attraverso anche siti di internet specializzati sull'Europa. Vorrei parlare prima di tutto del problema del gas di scisto, dello shale gas. È un problema che è al centro delle politiche energetiche mondiali e che sta disegnando delle grandi cambiamenti in tutto il mondo, negli Stati Uniti, ma anche in Europa. E come sappiamo, questo gas che viene, per chi non lo sapesse, ottenuto attraverso una fratturazione idraulica della roccia che permette di sparare fuori il gas con delle nuove tecnologie, è quella tecnologia che ha permesso agli Stati Uniti ultimamente di aumentare enormemente la produzione con la previsione di arrivare ad un'autonomia energetica entro la fine del decennio, con tutte le conseguenze che questo comporta per uno scenario di questo tipo, anche per quanto riguarda l'impegno degli Stati Uniti in zone produttrici di petrolio e gli scenari geopolitici. L'Europa di fronte a questo, come si pone? Ecco, l'Europa si pone in ordine sparso, di questo si è parlato, delle possibilità di autorizzare il gas di frantumazione o gas di scisto in Europa, ne hanno parlato i leader europei al penultimo vertice, ma rimane una posizione piuttosto scomoda, piuttosto controversa. Perché? Perché ci sono molte perplessità dal punto di vista degli ambientalisti. Diventa quindi una di quei temi in cui si contrappongono forze che sono favorevoli a questo tipo di nuova energia in nome di una maggiore produttività per l'industria che può esserne derivata, e altri invece che mettono in prima linea le preoccupazioni ambientali, soprattutto in un continente come l'Europa, che sappiamo ha delle estensioni territoriali molto inferiori agli Stati Uniti. Ora, guardando la stampa europea di questa settimana, si vede dove questo contrasto è emerso nel modo più diciamo deflagrante, e guardando Le Monde e il quotidiano francese Le Monde e l'inglese The Guardian, vediamo questo scontro che c'è stato in Gran Bretagna a Balcombe nell'East Sussex, dove dovevano appunto cominciare delle prime trivellazioni sperimentali di gas di scisto. Qui però, quando la società Quadriglia che doveva effettuare questi test si è presentata, ha trovato alcuni manifestanti, prima due che si erano incatenati ai cancelli, altri che avevano portato un furgone addirittura dei pompieri, e quindi ci sono stati 25 arresti a Balcombe. E come osserva Le Monde, quindi in Gran Bretagna la corsa al gas di scisto viene bloccata da una mobilitazione locale, quindi una situazione che un po' può ricordare il caso TAV. Insomma, ci sono anche questi no gas che hanno in realtà uno slogan che si chiama frack off, cioè non vogliamo il fracking off, ma che ovviamente richiama un'espressione molto più volgare inglese. Quindi questo movimento frack off ha fatto molto parlare, e Le Monde osserva come insomma questa marcia controversa verso il gas di scisto possa porre dei problemi in Gran Bretagna. Ricordiamo che in Europa infatti le autorizzazioni a questo tipo di esplorazioni sono date in ordine sparso, quindi manca quella coesione, quella politica europea comune che molti vorrebbero. The Guardian poi ricorda anche, ricordiamo che The Guardian è un quotidiano molto vicino agli laburisti inglesi, mette in luce che invece conservatore Lord Howell ha dal Parlamento britannico lanciato un appello per lo sfruttamento nel nord-est del paese di vasti spazi disabitati e deserti dove si potrebbe effettuare questa frantumazione idraulica della roccia. Si tratta, tra l'altro, questo Lord Howell è il suocero di George Osborne, il ministro delle finanze inglese, che ha detto che l'obiettivo della Gran Bretagna è di diventare leader nella produzione di questo shale gas a buon mercato, e propone degli sgravi fiscali. Sgravi fiscali che mandano invece su tutte le furie gli ambientalisti, per esempio Andrew Pendleton, ricordi al Guardian, che è un Presidente degli Amici della Terra, si scaglia contro questi vantaggi fiscali che verrebbero dati ai big dell'energia per un tipo di estrazione che a suo parere avrebbe anche, creerebbe dei danni ambientali. Ora, su questo tema ci sono stati vari altri interventi. Ricordiamo che la Polonia è uno dei paesi anche per acquisire un'indipendenza dal gas russo, che si è gettata su questo campo, però con dei problemi, perché la burocrazia delle concessioni per queste esplorazioni vengono contestate. Alcune compagnie come Exxon e anche Marathon Oil e altre sono ora perplesse, stanno facendo marcia indietro proprio per il carico burocratico. Anche il primo ministro rumeno Victor Porta ha aperto invece la porta alla fratturazione della roccia per estrarre gas, ma invece altri paesi come la Francia lo mantengono in assoluto divieto. Per quanto riguarda poi invece altri temi sempre energetici, ricordiamo che l'Economist oggi parte proprio con propone una copertina con un dinosauro con una pompa di benzina, dicendo yesterday's fuel, cioè il combustibile del passato, e qui si riferisce proprio al petrolio, con un richiamo anche qui allo shale gas e a chi fu il suo profeta, questo Mitchell, che inventò, un texano che inventò questa tecnica per estrarre il gas, che è venuto a mancare proprio la settimana scorsa. Un personaggio ha avuto una vita molto tumultuosa e 10 figli e solo all'età di 80 anni ha visto poi la sua scoperta adottata in modo così diffuso, ed è mancato appunto all'età di 94 anni. Poi se vediamo sempre l'Economist, c'è la rubrica Charlemagne, che è abitualmente curata dal corrispondente da Bruxelles dell'Economist, che invece ironizza un po' sull'abitudine europea di andare in vacanza, ovvero ricorda come molti europei, sebbene ci sia la crisi del debito, ci siano molti problemi di economia, non rinunciano alle vacanze d'agosto, e quindi vamos alla playa è un ricordo, insomma, che viene fatto dal corrispondente dell'Economist a Bruxelles. Poi abbiamo altre notizie che rimbalzano dai siti. C'è questo sito eunews.it che è diretto da Lorenzo Robustelli, che si occupa veramente prevalentemente di informazione comunitaria, che ricorda come agli europei il Wi-Fi piaccia davvero. Ovvero, secondo lo studio della Commissione europea, il Wi-Fi raccoglie un grande successo e nel 2012 nell'Unione il 71% di tutto il traffico dati senza fili è stato generato da smartphone e tablet, una percentuale che potrebbe toccare il 78% entro il 2016. Risultati sorprendenti che quindi hanno portato la commissaria Nelly Kroes a raccomandare la messa a disposizione di un più ampio spettro radio in tutta l'Unione Europea per sostenere questa domanda crescente. Questo è l'appello di Nelly Kroes, vicepresidente della Commissione Europea e responsabile dell'agenda digitale, che sostiene che il Wi-Fi è un grande successo dal quale tutti i soggetti coinvolti hanno da guadagnare. Ma poi un altro invece interessante blog, sempre in questo sito eunews.it, è quello che viene invece scritto da Rosa Balfour. Rosa Balfour, che è una studiosa del think tank europeo Center for European Studies di Bruxelles, che ricorda come per una volta Catherine Ashton, la rappresentante europea per gli affari esteri, si sia comportata bene in Egitto, perché sebbene molte volte criticata, questa volta ha chiesto di parlare con tutte le parti coinvolte della crisi, tra cui i rappresentanti dei Fratelli Musulmani, e diversamente da quanto avvenuto per l'inviato negli Stati Uniti, la sua richiesta è stata soddisfatta. Ha chiesto pubblicamente il rilascio del presidente deposto Morsi, un passo necessario per qualsiasi attore che chiedesse un ritorno al dialogo. E quindi l'Ashton, per una volta, sebbene spesso criticata, ha svolto una funzione positiva, secondo Rosa Balfour, e ci sentiamo di essere d'accordo. Quindi a questo punto vi saluto e vi auguro buona giornata. Io sono Enrico Brivio e vi lascio alla seguente programmazione di Radio 24. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.